A farla da padrone sono soprattutto gli scarti del vetro. C'è chi, come abbiamo visto, recupera il vetro dei vecchi televisori. Altre aziende, per esempio, hanno fatto accordi con degli ospedali per riciclare fiale e flacconi. Ci sono altre aziende che invece recuperano scarti della lavorazione del marmo e del granito, oppure del cemento, oppure recuperano scarti della stessa industria della ceramica. Altre aziende hanno invece deciso di puntare sulla origine bio, diciamo così, per esempio sulla cellulosa che viene ricavata dal riciclo della carta oppure dal legno e che viene mescolata a speciali resine per dar vita appunto a delle piastrelle un po' particolari. E c'è persino chi recupera scarti di metallo come alluminio e rame e, udite udite, frammenti di CD e DVD pirata sequestrati. Insomma, i materiali di recupero che possono essere inclusi nell'impasto usato per dar vita alle piastrelle sono i più disparati. E il bello è che spesso proprio questi materiali di scarto conferiscono caratteristiche estetiche molto interessanti e originali al prodotto finale. Ecco perché molte aziende, anche italiane, stanno puntando in questa direzione e infatti quest'anno c'è stata una sorta di esplosione delle aziende che hanno deciso di andare a Londra e che presenteranno i propri prodotti in occasione di EcoBuild 2012, forse la più importante fiera al mondo sull'edilizia sostenibile. Questi prodotti infatti sono particolarmente graditi nel mercato anglosassone dove, come ci ha anticipato Bonatto nell'intervista di Chiara Albicocco, si sta diffondendo sempre più questo sistema di certificazione degli edifici che si chiama LEED e che, come abbiamo visto proprio qui a Smart City, non guarda solo alle prestazioni energetiche finali degli edifici ma anche ai materiali utilizzati nella costruzione, laddove chi usa materiali riciclati ottiene più punti. Se poi queste piastrelle sono anche belle esteticamente e non costano più del normale, è evidente che insomma c'è un vantaggio per tutti. Per questa sera ci fermiamo qui, appuntamento a domani.